Bon, bon, bon. Né peccati, né parole, né pensieri, né persone, né silenzi, né rumore, né la quiete, né il dolore, né peccati, né parole, né pensieri, né persone, né silenzi, né rumore, né la quiete, né il dolore, né peccati, né parole, né pensieri, né persone, né silenzi, né rumore, né la quiete, né il dolore, né peccati, né parole, né pensieri, né persone, né silenzi, né rumore, né la quiete, noi. Con il silenzio attorno, il buio, il freddo accanto, dall'alto della notte queste luci son banali e non fanno per me che mi perdo dentro il fumo che ti esce dalla bocca insieme a gocciole di schiuma. Il pedone bianco vede la regina nera, non può far nient'altro che camminare dritto. Non bastano gli avvisi, i mostri, le leggende, ma butterà il suo giorno in un girone di isteria, in un modo o nell'altro quando arriverà la fine. Tanto vale in fondo che sia la più crudele, ma io non sono alfiere, tanto meno un cavaliere, e mi troveranno da te con la schiuma in mezzo ai denti, né peccati né parole, nella nostra notte bianca, né pensieri né persone, nella nostra notte bianca, né silenzi né rumore, noi la quiete, noi il dolore, ti scoprirò più avanti quanto lavorare stanca. Domani avremo scuse, per domani avremo sonno, per domani segnam pioggia, oggi stavo alla finestra e mi farà del male e piangerò parecchio, nasconderò il tuo viso da chi mi è stato accanto, così tu farai lo stesso come in fondo hai sempre fatto, come una regina in campo senza pezzi da mangiare. Io mi mentirò che in mezzo alla tua collezione sono stato più speciale, tu semplice pedone, ma non è questo il momento, ho impellenza dei tuoi occhi, se poi cadono dei fiocchi il male mio nemico, non ci sono alternative, chi lo pensa un disilluso, ma io aspetto in via del campo coi diamanti nelle tasche, né peccati né parole, nella nostra notte bianca, né pensieri né persone, nella nostra notte bianca, né silenzi né rumore, noi la quiete, noi il dolore, mi scoprirò più avanti quanto lavorare stanca. Noi la quiete, noi il dolore, né peccati né parole, né pensieri né persone, né silenzi né rumore, noi la quiete, noi il dolore, né peccati né parole, né pensieri né persone, né silenzi né rumore, noi la quiete, noi il dolore, né peccati né parole, né pensieri né persone, né silenzi né rumore, noi la quiete, noi, noi, noi, noi.